stai uscendo. Non stai uscendo. Non stai uscendo, il segnale c'è, ma non stai uscendo. Solo qua la parte mia rimane leggermente leggermente compressa la modulazione. Questo è proprio vicino, no, non c'è niente, sto con 4 watt, non sto usando nulla, non c'ho più stazione. Si sente leggermente il cuffo. Perché questo qui non è stato modificato, il microfono originale. Ma forse che sia per quello. Quanti ora? non c'ho altro. È il microfono amplificato. Allora, però ci usiamo le frega niente, però lo stesso, E devo fare una modifica. cade invece dei pezzettini di ferro, avviti dove si avvitava l'avviti e poi fa un buco più avanti e lo avviti. Ma che è brutto, già, è brutto. Io ce l'ho una scocca, poi la vuoi provare. Ma è grande, ho guardato la batteria, è grande, figurati la scocca. Vabbè, ce la vuoi provare, dimmi. Comunque, aiuto, non vedi, se non devi fare niente, già. Ti faccio guardare, cazzo, come è sale, la cosa micidiale, è potente, no? Un bel però, è dura la batteria. Però, guardi, due, tre, sono le guardie, la batteria morta. Dura, vedi, c'è tanto, non vedi, non devi fare niente. Faccio vedere. Brava, va bene. Quanti capri, anch'io ce l'ho l'elicottero. Se tu muti laggiù hanno tipo una specie di taglio, no? Dici, ecco, hai visto? Cosa è questo taglio? E tu guardi, no? Il taglio, lo faccio, lo faccio il buco. Cioè, sono uguali oppure una bici avversa, come vogliamo essere. Ma questo cappello come vuoi dire uguali tu? Aspetta. Cosa già? Sono serrato, dove c'è erba? Dove ci sono prati di erba grandi, se vogliamo lì. Io Marco lo vuole da provare, non l'ho dato, non mi fido ancora. molto leggero. Tu ti dicono che è bello, certo non ti piace. Non mi piace, a me non sa che è. E a volte non ti dico, è un po' fastidioso di notte, no, veramente. Ah, sì. Ah, vabbè. Sì, ma c'è un microfono bello da attaccare al magno. E se ci un bel faccio in burro, ma al magno, ma al gas. Quindi questo che rimane, sì. A me senti, aspetta. E se avessi riesco a fare un salire in casa, non ha più dello spazio. Sì. Grazie per il saluto. Comunque capo, se ti interessa, c'è uno scivolo in vendita, è funzionante. Quello. Questo qua è proprio nuovo, nuovo, nuovo. Cento, cento. Ma mica ti stavo cercando di capire perché ti ho spiegato. Giuseppe, Giuseppe, sì, sì. Sì. Boh, riprendi capito. punta. Forse ti ha di capire la parola monte. Sempre sono stranieri. Capirono già, mi sa che sono stranieri. Babu. Niente, no. C'ho un cazzo di cosa qua. Vabbè, mi sa che... andiamo. E poi si guarda. Io ho fatto una bambina da... una carica l'ho messa sopra la batteria. Adesso mi si illumina. Cioè che... la batteria che si illumina. Sembra colore. Quale vi tutto? Adesso posso caricare un po'. Però non ho un bel fuori. Come mi dice lì che si va bene. Dai, di faccia allora. Non so come magari è guardato rosso, l'hai visto tu già. Posso registrarlo. Non so. Sto pensando, mi sa che domani faccio una cosa. C'è un pochettino di... un cosettino, no? Tipo... come si chiama? Un... ma... mi viene il nome adesso. No, ma tipo... ma... cazzo, non vengono chiamati. Vabbè. Un pochettino di ferro, chiamiamolo ferro, eh? La faccio. Sono troppo grande, glielo taglio più piccolo, cioè punta le dita come fini e fini, la sotto un piccolo due buchettini e attacco sia a parte, diciamo lì, lo facciamo spazio, buco, metto la ventina e poi buco il petto dove è rotto. Vediamo giusto così. Sicuramente tiene meglio. Poi facciamo la modifica, poi ti faccio una modifica in miniatura.